avait des yeux d'opale qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle. Mais l'argomento di cui vorrei trattare oggi fa sicuramente parte del tourbillon de la vie. Fa parte, in una contemporanea accezione, di ciò che riguarda comunque la sfera variegata, fantasiosa, rispettabilmente individuale delle fantasie amorose e passionali. Beh, non ci giro tanto intorno. Questa mattina vorrei parlare della transmania. Cos'è la transmania? Nulla a che fare con la transavanguardia, nulla a che fare con Bonito Oliva. Ha a che fare con una ormai percepibile come icona pop, passione maschile per altri maschi che si travestono da donna. Questa è la cruda rappresentazione essenziale di un fenomeno che è andato crescendo, è stato alimentato da cronache recenti, in cui la televisione e i mass media hanno inzuppato il pane, in cui è stato creato una nuova icona di tipologia di personaggio di ospite televisivo, che è il trans o la trans, a seconda del punto di vista a cui ci si pone. Diciamo che la trans è politicamente più corretto, il trans, secondo me, morfologicamente più esatto. Si tratta di uomini che comunque assumono fattezze femminili, femminilizzano il loro aspetto. Perché lo fanno? Lo fanno perché hanno una loro particolare, personalissima tendenza a essere donne. In un corpo maschile si nasconde in realtà una psiche, un desiderio, una sensibilità tipicamente femminile. Oggi che le tecnologie di ricostruzione, di riprogettazione, di modificazione del proprio corpo permettono a una donna che è imprigionata in un corpo di uomo di avere delle fattezze più simili a quelle appunto che lei si aspetta di avere, quindi intervengono con cure ormonali, con modificazioni tipo estetico, che somigliano apparentemente a delle donne, delle iperdonne, le donne iperdotate, le donne imponenti, delle donne con caratteristiche molto difficili da decifrare, chi non abbia quella particolare attenzione, quella particolare curiosità, la cui caratteristica in realtà fondamentale, il punctum, l'essenzialità è il fatto che nella loro intimità rimangono maschi. In realtà il grande successo della transmania è il fatto che gli uomini hanno scoperto un'alternativa a tutte le loro possibili applicazioni fantasiose nel campo della sfera amoroso, sessual, romantica, che è quello di andare con un uomo che in realtà è una donna, oppure andare con una donna che ha le caratteristiche dell'uomo. Questo è un fenomeno che sembrava relegato a una stretta minoranza di esteti, buongustai, chiamateli come volete, particolari raffinati intenditori delle raffinatezze e del superamento di tutte le soglie, ma oggi abbiamo capito, lo comprendiamo, al di là della grande lettura sui vizietti degli uomini di Stato, degli uomini di governo, degli uomini che rappresentano il potere politico, il potere economico, che in realtà è una moda diffusissima. Oggi se si ammicca con dei ragazzotti di bar in qualunque periferia italiana è molto facile trovare sguardi consenzienti o complici tirate di gomito se si comincia ad entrare nell'immaginario erotico che suggeriscono appunto i trans. Marta, l'avete capito, è una transessuale, un'imprenditrice. Che cosa è successo? Queste due persone erano fuori, queste due trans che si prostituivano prima al di fuori del locale, poi sono entrati anche loro per ballare, sono stata aggredita da loro e mi è stato detto: così impari a sputare veleno su noi trans che ci prostituiamo. Quando ero ragazzo mi sono illusa di innamorarmi, in realtà non ho mai provato l'amore, era un sentimento che pensavo di conoscere ma non ho mai provato prima. Oggi, dopo che mi sono operata poco più di un anno fa, so che cos'è l'amore, so cosa vuol dire soffrire per amore. Come vedete, questi sono degli stralci che abbiamo preso dalla presenza, a volte anche ossessiva, di transessuali nella televisione degli ultimi mesi. Dal caso Marrazzo in poi, improvvisamente l'Italia sembra che abbia scoperto quella che è l'acqua calda, che i maschi italiani, che avevano sempre avuto una palma non so quanto meritata, non so quanto giustamente conquistata e mantenuta sul campo, di grandi amatori, di sciupa femmine, di squartatori di donne, quando in realtà si è capito che sotto sotto gli italiani hanno questa appassionaccia. Ma se ce l'hanno gli uomini politici, se l'hanno i rappresentanti comunque del popolo, si vede che la passionaccia è ben diffusa, ben distribuita a tutti i livelli, in tutte le classi sociali, in tutte le tipologie di maschi italiani. Su questo vi chiederei questa mattina di fare un sforzo di sincerità e di attenzione, parlando della vostra esperienza, di quello che sentite, di quello che orecchiate. Se confermate questa mia idea, che ormai è stato completamente sdoganato, io non do nessun giudizio di merito, figuriamoci, ognuno è liberissimo di fare ciò che vuole, ma voglio osservare un fenomeno, voglio capire quanto questo fenomeno, secondo quello che io penso questa mattina, sia ormai normalizzato. Non è detto che sia un bene, non è detto che sia un male, però è una realtà su cui voglio capire qualcosa. 800240024, quanto pensate che sia presente come immaginario, come desiderio, come possibilità di alternativa all'immagine del transessuale in Italia? Ha sofferto non tanto per quello che le hanno detto, perché essere una trans, voglio dire, non è né un'offesa né una calunnia. La vicenda potrebbe essere stata organizzata ad arte dall'agenzia di Roma della ragazza proprio per creare clamore. Insomma, in questi giorni si parla solo di lei. Allora, lei fa parte di quei giornalisti che, come questi qua che hanno messo in giro questo polverone, dicono delle cattiverie pur di guadagnare soldi. Guarda, scusa, senza guardare, sì. Senza guardare i sentimenti di una persona e cosa si può scatenare in una ragazza, perché io adesso questi giorni sono stata bene, l'ho presa col sorriso. Anche non è che ti hanno detto che sei una disgraziata, non è che ti hanno accusato di chissà cosa. Adesso non esagerare, non essere tu la prima che esagera in questa circostanza. Non ti è stato detto niente di volgare, di clamoroso, di penale. È un pettegolezzo. Io non so lei che principi ha, evidentemente non ha sani principi. Io rispetto le persone, le trans, gli eterosessuali, gli omosessuali, rispetto gli esseri umani, quindi questi sono i miei principi. Però lei gli dicesse che lei è, e naturalmente questo immaginario è così diffuso, così palpitante, così spalmato in tutte le sensibilità, in tutte le persone che leggono, che occhieggiano, che ascoltano, che non c'è più ormai manifestazione pubblica, festa di paese, sagra della salsiccia, ma come pure grande talk show televisivo, grande reality show, in cui non ci sia sempre paventata, allucinata, sottintesa, costruita d'arte, come nel caso di Miss Italia, la storia ci possa essere tra le ragazze schierate per fare un concorso di bellezza, per partecipare a un concorso, a un'attenzione di qualsiasi tipo. Il trans avvenne per il Grande Fratello, avviene puntualmente per tutta una serie di concorsi, penso che avvenga anche per le selezioni di Miss Muretto, cose del genere, è avvenuto anche a Miss Italia. La più sacra e intoccabile manifestazione delle ragazze alla porta accanto è stata toccata da quella che secondo me è una banalissima campagna di richiamo di attenzione pubblicitaria. Una Miss Lazio, è stata sospettata di essere trans. Lei piange, fa la scena, fa finta di essersela presa, ma in realtà è stata l'unica occasione che ha avuto perché lei potesse perlomeno avere un barlume di visibilità sulle altre. Ma per saperne di più su un argomento di cui non siamo provvisti di prove dirette o di testimonianze sul campo, ci colleghiamo con Marianna Aprile. Marianna, buongiorno. Buongiorno. Marianna Aprile, la nostra amica inviata di Novella 2000, che sta a Miss Italia, Salso Maggiore, che si è seguita la finalissima, che ha pernottato con la vincitrice, che ci dirà tutto sulla vicenda del trans e Miss Italia. Ho passato la notte con la Miss. No, la vicenda del trans... Oddio, date le premesse, poteva anche andarti bene. No, la ragazza merita. No, quanto al discorso che stai facendo sulla campagna, diciamo, di pubblicità di transizzazione di ogni evento, diciamo. Esatto, no, nel caso specifico di Miss Lazio credo anch'io che sia stata una sapiente opera di pubblicizzazione da parte della sua agenzia, perché l'indiscrezione, che tale non era, è arrivata a pioggia a tutti i siti di gossip, anche al blog di Novella, insomma qualcuno l'ha raccolta e l'ha rilanciata, però insomma, la cosa è piuttosto sospetta, tant'è vero che oggi la ragazza sarà ospite della prima di una lunga serie di trasmissioni televisive che si occuperanno del caso. Il fenomeno che di cui parlavi è abbastanza inquietante, non tanto per la presenza televisiva delle trans quanto per il loro sdoganamento, e ne faccio un discorso, diciamo, da donna empatica con i sogni erotici degli uomini. Anche cioè, Marianna, lo dico, non è necessario ricordare la tua storia professionale, ma sei tra le persone che hanno seguito per prima in maniera più capillare tutta la vicenda Marrazzo, quindi conosci l'argomento e conosci l'uso che i media fanno di questo argomento. Assolutamente, però è un'arma a doppio taglio, perché se da una parte la vicenda, prima il Grande Fratello con Silvia Burgio, che peraltro gossipino sta per convolare a giuste nozze col fidanzato storico, quindi sarà la nemesi della, diciamo, della mediaticità della trans, ma con il caso Marrazzo, insomma, si è un po' aperto un velo su un mondo che in qualche modo tutti immaginavamo, ma che nessuno aveva mai davvero indagato. L'unico problema è che non riusciamo a fermarci, e il pericolo qual è? Quello che di trasformare in una cosa banale quello che era la regina delle trasgressioni, cioè da che mondo in mondo, e questo è vero anche, diciamo, nelle società primitive, nella storia delle religioni e nelle religiosità popolari, un individuo concreto o mitologico che fosse, che incarnasse in un unico corpo i due sessi, era qualcosa di misterioso, affascinante, di terribile, di pauroso, che però aveva una sua sacralità. Cioè noi abbiamo, e mi ci metto anch'io, ma insomma è la cronaca che ci ha guidati, abbiamo smitizzato una figura che in qualche modo era rimasta l'ultimo appiglio, no? di un erotismo che altri appigli non ha al momento. Cioè io non ridisco all'idea di pensare cosa sarà il dopo trans nei sogni erotici italiani, cioè cosa ci dovremo inventare pur di avere un brivido. Oramai mi sembra, Marianna, visto che è diventato materia di così popolare trattazione, che non si tratti più di rividi, sono alla portata di tutti, esperienza alla portata di tutti, tanto che vengono ormai le protagoniste delle vicende, della cronaca, delle grandi interviste, sono diventate le scrittrici, delle sociologhe, sono persone che hanno scritto trattati su quello che noi stiamo questa mattina cercando di capire. Se hai ancora qualche minuto, resta in ascolto, perché vorrei chiamare al telefono Efe Bal. Efe, buongiorno. Buongiorno. Efe, lei è stata una delle protagoniste gloriose di tutti i talk show televisivi, anche perché pare che sia la più bella delle trans, la più femminile delle trans, quella che tutti... Beh, non lo dico io, lo dicono gli altri, ma penso sia vero. Diciamo che nella rassegna era la persona che più destava interesse e curiosità, vedevo i conduttori tutti con la bavettina alla bocca. Tanto che lei ha scritto un libro assieme a Stefania Berbenni, Quello che i mariti non dicono, Confessioni di una trans, edizioni Mondadori, dove in realtà svela quello che era rimasto il grande non detto di tutta questa vicenda. Sembrava un grande circo delle illusioni, del divertimento, dei lustrini e tutto, ma in realtà Efi ha detto che oltre ai politici, oltre alle liste innominabili dei VIP, esiste tutta una serie di ragionieri, di geometri, di idraulici, di studenti, di padri di famiglia che normalmente hanno questa pratica. Esattamente, cioè noi ovviamente tramite media e giornali tutto vediamo dei casi molto grandi, cioè i politici, Miss Italia, tutti questi casi che succedono, che vediamo, seguiamo tramite televisione. Sì, alcuni tramite veri, alcuni presunti. Miss Italia, alcuni veri, alcuni presunti. Non esisteva trans a Miss Italia. Sì, ho capito. Comunque sia, ma ci sono anche altri mille casi che succedono, che capitano per le persone molto più normali, a un operaio, a un insegnante. Questo io vorrei soltanto dire, noi ci siamo, siamo una realtà, viviamo tra le persone normali, lavoriamo, purtroppo tanti lavoriamo in un modo vendendo i nostri corpi, ma ci siamo. Siamo una realtà. Ovviamente adesso in Miss Italia è successo tutto questo casino, credo soltanto per motivi di pubblicità, motivi di attrarre più attenzione a questa ragazza bellissima, ma nei altri casi siamo lì, facciamo l'amore con queste persone importanti e abbiamo un ruolo con tanti uomini. Siamo una realtà. Io in questo libro ho raccontato tanti casi, diversi uomini, diversi tipi di uomini che fanno diversi lavori, che è una realtà. In tutto il libro ho raccontato delle storie vere, ovviamente senza dire i nomi veri o piuttosto proprio entrare. Io ho letto il suo libro e c'è più o meno la conferma di quello stiamo cercando di capire. Lei non dico che mette in guardia, ma dice: guarda, date, italiani, rendetevi conto che una realtà talmente capillarmente diffusa non esiste più una categoria di maschio italiano che frequenta transessuali. Qualsiasi maschio italiano che ha delle digressioni dalla vita di coppia, poi normalmente sono anche le coppie, lei parla di tanti mariti e moglie che vengono assieme perché danno una rinfrescata alle loro fantasie, ma può darmi una tipologia del più normale, del più banale, del più semplice dei suoi clienti? Chiaramente, un uomo che arriva a 35-40 anni, che ha già fatto un matrimonio, ha già figli, ha un bellissimo lavoro, ha una bellissima macchina, bellissima moglie, è tutto perfetto in questo, nella sua vita, di questo uomo, diciamo, Marco o Umberto. E alla fine un giorno arriva, un giorno con bel sole, un giorno eccezionalmente tranquillo nella sua vita, e dice: ma oggi vorrei provare, magari, visto che anche nel Miss Italia parlano, visto che anche Marrazzo è andato, visto che tutti i canali televisione... Non è che le scelte estetiche di Marrazzo siano un modello che fa venire voglia di seguirle sempre, adesso non è... Comunque sia, alla fine arriva il momento in cui qualsiasi uomo nella sua vita vuole provare questa esperienza, e questa non è una cosa... Non dico. Cioè, lei è convinta che qualsiasi uomo abbia questa idea prima o poi? Guardi, ho lavorato per tantissimo tempo sulle strade, i primi tempi che ero qui in Italia, vedevo ogni giorno tantissimi uomini, tanto meno che dicevo: nel mare non si può finire il pesce, e in strada non si può mai finire questi uomini che vengono, che prendono questi trans. Sì. Era una cosa, erano tantissimi, lo è ancora. Qualche volta, tornando magari da un ristorante, da un locale, faccio un giretto, vedo le mie... Quindi chi non ha questa idea è un pesce fuor d'acqua, nella sua lettura? No, perché no. Mi viene in mente, allora, questi signori che vengono da lei tranquilli, che si svegliano una mattina di sole e dicono: vorrei provare il trans. Sì. Hanno avuto, diciamo, un avvicinamento graduale, nel senso, prima hanno cominciato con le colleghe d'ufficio, con le vicine di pianerottolo, con le signorine... Allora, la prima cosa che un uomo va con trans, il primo fattore è la curiosità. Sicuramente parlando con i suoi amici, con i suoi colleghi di lavoro, sicuramente leggendo qualche giornale, sicuramente guardando qualche programma televisivo. Adesso, per esempio, ultimamente questa signora Mancini, che hanno pensato, hanno detto tutti che forse è una trans. Tutti questi fattori portano un uomo a un punto in cui un bel giorno questo uomo, questo signore, si sveglia, si saluta la sua moglie, i suoi bambini, il suo cane, va al lavoro e all'orario di pranzo, perché no, magari va a visitare, va a provare queste esperienze con la trans. Va in pescheria, nella sua metafora. Va a pescheria, non vorrei parlare, cioè è un modo brutto per dire. Sì, però comunque delle persone che viviamo, come ho detto, purtroppo, siccome non ci offrono molto per fare, allora facciamo in tanti facciamo questo brutto mestiere, che vendiamo i nostri corpi. Sì, diciamo non vogliamo far credere che sia sempre Efe rappresenta una delle punte più felici della trans che si prostituisce, ma ci sono cifre di 20 milioni al mese di racket di sfruttamento, c'è dietro violenza, c'è dietro un'infinita schiavitù vera e propria. Non è che uno va a cuor leggero quando va con una trans come va con Efe, che c'ha il suo appartamento, ormai è un personaggio pubblico, nessuno le torcerebbe un capello. Anche io ho passato dei bruttissimi periodi, bruttissimi momenti, mi hanno voluto picchiare, mi hanno voluto graffiare il viso, insomma, mi è successo anche tutto a me. So che ho lavorato sempre, io ho cercato di essere sempre una persona sola soprattutto, e così ho potuto proteggere me stessa. Anche adesso la protegge la notorietà, Efe, ormai è un personaggio talmente noto che... Sì, mi conoscono tantissimi, ed è come ho detto anche nei giornali, insomma, nelle interviste, le persone mi hanno amato, cioè mi fermano, mi chiedono... Efe, soltanto una cosa volevo... Lei può dare... faccia questa cortesia al nostro pubblico in apprensione, sì, che è rimasto congelato. Una sorta di prova finestra: se una moglie volesse capire se il marito ha questa inclinazione, esiste una maniera per capirlo, un segno che rimane addosso? C'è una maniera per capirlo, oppure... Allora, è un uomo che soltanto prova per una volta, due, soltanto per curiosità, soltanto non perché gli amici, non si vede. Ovviamente un uomo che prova in continuazione, secondo me dopo un po' la moglie, soprattutto in letto, potrebbe un pochettino capire, se vorrebbe capire, perché bisogna anche dire che purtroppo io non che odio le donne, anzi ho le mie ho i miei amici fatte sempre da donne. Lei è stata anche sposata, mi pare, no? È stata sposata con una donna? Io sì. sì, anni fa le ho fatto anche, sì, sono stata anche con una donna che, come ho detto, è la mia migliore amica ora, quindi, però qualche volta il colpevole e qualche volta anche la moglie, che un uomo va a provare questa esperienza con trans. Quindi vorrei che magari la moglie capisce in un momento che il marito fa questa cosa qua, e così magari per non farlo fare ancora, si prepara la sera. Cioè, oddio, si dovrebbe attrezzare anche la moglie per dare al marito quello che date. Guardi, voi, e la vedo un po' complicata. Con le trans, non soltanto, magari il primo fattore è la curiosità, sicuramente, che vuole assaggiare. Ma senti, facciamo una cosa, scusi Efe, siccome il suo discorso mi sembra interessante, poi devo dare la linea all'informazione della borsa. Fermiamoci soltanto un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Provocantissima giocherellona, chiamami ostia, transessualissima, femminilissima Pinetta Sacchetti, trans Francesina bellissima, trans grandi sensazioni Patrizia, trans dolcissima, indimenticabili momenti, chiamami bellissima, trans nera, grandissima sensazione, potentissima, chiamami. Ho capito. Prima che tu legga l'elenco telefonico dei... Vabbè, è un giornale. No, ma perché cioè, che cosa vuoi sottolineare? Che è ipocrita da parte di un giornale pubblicare questo? Beh, intanto è singolare che si venga e si faccia questa apologia della prostituzione. Evidentemente sono pagati. Poi ci sono anche le povere donne normali, cinese ausiliatrice, coreana bella, giapponese, parioli bellissimi. Abbiamo capito. Naturalmente bella, chiama, mi fa tenerezza. Signor sindaco, non c'hanno niente da dare. Questa qua invece è completissima, potentissima. Senti questa, Centocelle, spettacolarissima, femminilissima. Questo è Vittorio Sgarbi che in una trasmissione televisiva sottolineava quello che stiamo dicendo anche noi, che ormai anche il mercato delle illusioni o dei piaceri o della soddisfazione delle pulsioni nascoste e inconfessabili è monopolizzato appunto dalla transavanguardia, che più non è transavanguardia ma ormai è una tranquilla pratica popolare. Quello che stiamo cercando di capire questa mattina è chiamata all'800240024, vedo una ghiacciante latitanza da parte delle signore che vorranno chiudere le orecchie, saranno lì a fare così con le orecchie chiuse, che non vogliono sentire quello che stiamo dicendo questa mattina. Marianna Aprile, inviata di Novella 2000 Miss Italia, scusa ti ho tenuto sospesa per tutto questo tempo, ma dai un commento riguardo a quello che ha detto appunto la signora Efe Ball, che argomento che tu hai vastamente sviscerato. Guarda, sia Efe che a modo suo, con i soliti parossismi Sgarbi, dicono una cosa che è vera e che nel mio piccolo ho potuto in qualche modo sperimentare sulla pelle, e cioè gli annunci che leggeva Sgarbi, oltre che pubblicizzare ovviamente tutti gli appeal fisici delle trans in questione, sì, che poi è sempre anche l'iperattrezzatura che mettono in primo piano, che è la cosa che pare più interessante. Esattamente, però c'è sempre una connotazione, persino nell'annuncio, quindi nella pubblicità, dice una connotazione emotiva, cioè dolcissima, cioè tutte degli aggettivi che fanno riferimento a qualcosa che in teoria sessuale non è. E qui mi ricollego a quello che diceva Efe e quello che ho potuto vedere, diciamo, in quei mesi tra Via Gradoli e Via Due Ponti. Il problema, diciamo, lo shock emotivo che la vicinanza, la prossimità e la frequentazione con quelle transessuali hanno provocato in me, donna 34enne, è stato proprio questo, cioè l'osservare... Dotatissima, tra l'altro, posso dirlo perché ti conosco, sennò sembra... Se parlasse una cozza potrebbe essere un motivo di invidia. No, in realtà è una cosa che con l'aspetto fisico non c'entra nulla, cioè è un atteggiamento femminile che loro hanno, persino cioè si è molto ironizzato sul fatto che Nathalie, diciamo, non truccata e non acconciata non fosse poi così appetibile. Tutti hanno fatto più di battute sui gusti estetici del governatore, dell'ex governatore Marrazzo. Ma io posso testimoniare sulla mia pelle, e giuro non ho mai avuto nessun tipo di, come dire, di tentazione omosessuale finora nella mia vita. Nathalie ha una femminilità diversa, prorompente, nonostante il suo 1,84 m, nonostante il 44 di piede, cioè è un tipo di donna che le donne forse non riescono a essere più. Quindi diciamo, Marianna, che la tecnologia trasformatrice che oggi raggiunge livelli molto, molto avanzati riesce a concretizzare in una raffigurazione concreta l'istinto, la femminilità, tutto quello che uomini che sentono donne hanno sempre tenuto nascosto dentro, quindi c'è una possibilità di proiezione esterna di quello che si è dentro, quindi si è creata la bambola perfetta. Assolutamente, ma poi le transessuali in genere tendono chirurgicamente a potenziare tutte le connotazioni femminili, hanno sempre seni molto grossi, labbra molto grandi, zigomi molto pronunciati, cose che gran parte delle donne vere non hanno. È solo che davvero quello che all'inizio valutavo solo come una connotazione estetica, no? Cioè un'esagerazione estetica per compensare il fatto che donne fino in fondo non lo si è, in realtà credo sia proprio una carnificazione, nonostante siano di silicone, di quanto femmine sono, ma che sono femmine, c'è niente da fare, hanno un'attenzione, hanno sono geishe, sono la gran parte degli uomini che stabilmente vanno con le transessuali, io non parlo della curiosità, la curiosità si esaurisce con un unico 2, 3, X, come diceva appunto, limitato di rapporti sessuali, mentre i clienti abituali delle trans, per quello che ho potuto vedere io dai racconti delle trans di quei luoghi lì, della Cassia, sono frequentatori emotivi, non sessuali, cioè spesso il sesso non c'è o è scimmiottato o arriva dopo, comunque non è la priorità, non è il motivo principale per cui si va lì. Uno dei motivi sicuramente sono gli stupefacenti, cioè ci sono tanti... Sì, quello però è un condimento generale ormai di ogni attività. Però è un tipo di, diciamo, di corrispondenza emotiva che è totale, perché sono uomini che hanno ben chiaro cosa voglia un uomo da una donna e sono donne che sono in grado di dare agli uomini quello che cercano. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le vin de son vin. Saluto Marianna Aprile e passiamo immediatamente ad Andrea. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Velocemente, rispetto a quello che ha detto Marianna Aprile. Io volevo portare la mia esperienza privata, perché secondo me c'è moltissima ignoranza, detto in senso buono, riguardo all'argomento. Intanto, vabbè, io volevo dire che sono di indole omosessuale, vivo la mia vita normalmente da uomo e in privato diciamo che ho il gusto di indossare abiti femminili ricercando la massima perfezione, diciamo così, nel... Quindi lei si trasforma in donna, una sorta sì, di attività compensatoria teatrale che svolge in privato, fine. Esatto, esatto, anche perché lo dico, diciamo, senza vergogna, io sono una mangiatrice di uomini, mi piace proprio l'uomo, per cui spazio... Però quando mangia gli uomini si veste da uomo? Sì, io spazio dal rapporto, diciamo così, omosessuale canonico a quello eterosessuale o presunto tale, insomma, attraverso appunto una... Vabbè, lei diciamo, non si limita alle sue fantasie e ci dimostra che in realtà esiste una gamma talmente variegata, complicata, fantasiosa e articolata di possibilità di dare corpo alle proprie fantasie, e le ha mostrata una di queste. Raffaele. Eccomi. Pronto? Ecco, sì, la sto ascoltando. Se ho una radio accesa, la chiuda. Ok, perfetto, già l'ho fatto. Volevo ringraziare per la possibilità di intervenire in trasmissione e fare i complimenti a lei, come normalmente usano sì, fare, ho una definizione per lei. Lei è solo un enzima per la mente. Chiudo e passo al mio intervento. Sì. In effetti io non sono assolutamente d'accordo con il trans che prima ha detto che ogni uomo ha il desiderio di provare un rapporto con un trans in una maniera estremamente impossibile, ma per il semplice fatto... Vabbè, ne ha conosciuti 3.000, di questi 3.000 si è fatta una sua idea statistica, dal suo punto di vista. Dire che tutti hanno il desiderio di andare con un trans, non mi trova portando rispetto sempre per tutti. Sì, sì, ma ho detto anch'io, ma lei fa il distinguo, lei dice io non mi va di andare coi trans. Assolutamente, no, prendiamo atto. Sì, sì, prendiamo atto, ma guardi che le affermazioni sui categoriche, va bene, ne prendiamo atto, lei dice che non tutti gli uomini, ma anch'io sono convinto che non tutti gli uomini, però non sento il bisogno di impugnarlo come fosse una bandiera, non me lo scrive su una maglietta, non vado con i trans, perché fa parte della mia scelta personale. Efe. Eccomi. Su questa, hai avuto vari spunti. Grazie. sono proprio questi signori che dicono, che negano che vanno con i trans, che non andranno mai, che proprio sono loro che vanno prima di tutti. Comunque sia, questa è ovviamente la mia idea, io ne ho visto più di 3.000 uomini, ma nel libro si chiede 3.000, ne ho visto più di 3.000 uomini, nel mio letto ho parlato, discorso, ho esaminato i loro desideri. Qualcuno si pente visto, dopo, si sente in colpa dopo che... Sì, certo, abbiamo anche scritto questo anche nel libro, certo che qualcuno si sente in colpa, perché come tanti uomini che si sentono in colpa quando vanno a letto anche con la donna, dopo che raggiungono l'orgasmo dicono: cosa ho fatto, perché ho fatto, ho due figli, ho una moglie, come mai, e così. Quindi e fanno il pianto del coccodrillo davanti a lei. Fanno il pianto non soltanto andando con i trans, fanno il pianto quando magari vanno con una donna, quindi è questo l'impianto, se c'è sempre quando un uomo è sposato, quando un uomo c'è figli. Comunque sì, diciamo la verità, anche le donne fanno il piantarello: Dio mio, come ho fatto, come sono caduta in basso, come ho potuto, non avrei mai pensato. Fa parte un po' della natura umana, varcare la soglia del proibito e poi... Purtroppo quando un uomo tradisce la moglie con una trans o con una prostituta, soprattutto questo uomo, quando è molto importante, insomma, nel politico, quelle che sia, che diventa un scandalo. Ma figuriamoci, anche le donne fanno questa cosa qua. Non pensiamo che nel 2010 ancora le donne guardano soltanto gli uomini che li tradiscono. Quindi sicuramente anche le donne, grazie al chat, grazie ai siti, grazie che ci sono mille opportunità, che riescono a tradire proprio i loro mariti, lo fanno e fanno anche bene. Cioè, insomma, danno pan per focaccia. Ringrazio Efeballa, autrice, ricordo, insieme a Stefania Berbenni, Quello che i mariti non dicono, confessione di una trans, edizione Mondadori, manuale che darà grandi palpiti di attenzione nelle famiglie italiane. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. L'Associazione Psichiatrica Americana classifica la disforia sessuale come un disturbo mentale molto grave. Dopo la mia operazione, neanche un ginecologo sarà in grado di trovare qualcosa di anormale nel mio corpo. Io diventerò una donna. Non trova curioso che la chirurgia possa curare un disturbo mentale? Che cosa prova per il suo pene? Disgusto e basta. Non lo posso neanche guardare. E i suoi amici? Non piace neanche a loro. No, voglio dire, amici che la sostengono? Sono molto legata alla mia terapista. Questa era la seduta preventiva dello psichiatra per autorizzare l'operazione di mutazione totale di sesso. Il film è Trans America, e questo padre è diventato donna che poi va alla ricerca, appunto, del proprio figlio. Manuela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È allibita. Allibita. E perché no, allibita? Ridevo sola. No, perché mi sono messa nei panni di tutte quelle mogli, siccome la colpa è un po' nostra se loro vanno a trans. Potrebbero essere anche i suoi panni, perché lo escludo? Ma certo, no, infatti no. Ha fatto la prova finestra suo marito? No, non l'ho fatta. Non ha avuto coraggio? Però, ma provi a pensare, Nicoletti, cioè, tu lavori tutto il giorno, pannolini, biberon, chi ce li hai? Ci abbiamo avuti tutti per le mani. Fai la cena e poi la sera vai in camera e tiri fuori manette, frustini. E allora? Ma chi ce l'ha la forza e la voglia? Cioè, lei lo fa, il suo ospite lo fa per mestiere, la sua ospite lo fa per mestiere. E quindi, diciamo, è come giocare in Serie A e noi giochiamo calcetto la domenica. Lei dice, facile addobbarsi quando uno non c'ha altro lavoro da fare. È vero, sì. Cioè, lei è il suo mestiere, per noi sarebbe un po' dura, penso. Sì, però, signora mia, se uno vuole mantenere, diciamo, il rapporto di coppia è fatto di doveri, sì, di necessità, di condivisione, sì, di oneri. Ma sarà fantasioso. Ma, sì, il però, nostro sarà un modo di far sesso un po' meno fantasioso. Sì, però esiste anche quello. Che lo fai con la stessa persona? Cioè, sì. Non è come lei che magari cambia la fortuna di cambiare? Lei dice non c'è battaglia, non è c'è vero. Paragone, abbiamo perso in partenza. No, ma questo, questo comunque sempre nei confronti degli adulteri, delle infedeltà, è chiaro, le coppie cementate dall'impegno, dall'amore, dalla vita comune, sanno che c'è qualcosa al di fuori che sfriccica e aleggia, delle quali non si può fare a meno. Michela. Eccoci, buongiorno. Io volevo fare questa domanda per Efe, nel senso... Già se n'è andata, però dica a me, vediamo, poi sentiremo. Però insomma, la condividiamo insieme. Allora, posto che magari il trans può anche incuriosire a una ragazza bisex, nel senso che... Sì, ma anche una donna normale, guarda, se lei legge il libro, infatti, è pieno di mogli che vanno con esatto. I mariti. Allora, esatto, però invece io credo che non sia così facile sdoganare dentro la coppia una terza persona, specie se più un trans. Quindi la mia domanda è... c'è chi sdogana realtà... anche gli animali da tiro, chi sdogana gli elefanti, cioè ognuno fa quello che vuole. Secondo me tutto può essere sdoganato in assoluto, poi ognuno fa delle sue scelte individuali. Ma non sono gli sdoganamenti che mi scandalizzano o mi fanno pensare. Mi fa pensare quando diventa una moda talmente corrente che si normalizza per tutti. Quello che una volta ha rappresentato una sorta di uscita dal mondo mistico-eroica, oggi è una pratica comune. Ma su questo forse può dirci qualcosa di più Emanuele Iannini. Iannini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore di sessuologia all'Università dell'Aquila, primo scientifico sessuologo in Italia che porta il sesso come disciplina da osservare da un punto di vista scientifico, non soltanto per ipotesi o psicoanalismi. Cosa ne dice Emanuele su quello che stiamo trattando, sulla diffusione popolare della transavanguardia? Dico che era ora, da un certo punto di vista, nel senso che il terrore del sessuologo è che la transfobia, che è una malattia molto sessuata, cioè molto presente in un genere piuttosto che nell'altro, e in particolare nel genere femminile, abbiamo ascoltato... La transfobia esiste proprio una patologia? Beh sì, è quella condizione che obbliga il suo ascoltatore a telefonare per dire non siamo tutti amanti dei trans, e questa è transfobia. È quella un'imbarazzante, cioè, ammissione di transfobia. In qualche maniera confuso tra quelli che invece sono incuriositi per questo terzo sesso, e poi appunto le donne, le mogli, le compagne che vivono nei confronti del transessuale una vera e propria sindrome di inadeguatezza. Non ho quello che lui, lei, la trans ha, e per questo sono perdente. Quindi c'è questa dimensione che è carica nei confronti del transessuale, della transessuale, un odio profondo, un terrore veramente antico. Infatti il mito del transessuale è presente nella letteratura antica, nella filosofia, è sempre stato in qualche maniera descritto. Diciamo che oggi la vera rovina famiglia non è più la parrucchiera, la collega, è la trans. È la trans. Sì, sì, lo è, perché lo continuerà ad esserlo, anche se, come stava giustamente dicendo, si sta in qualche maniera quasi annoiando la presenza del transessuale, sta quasi diventando banale, però finché continua a conservare questo elemento che è centrale, la parola che ha detto Efe mi sembra assolutamente rivelatrice, curiosità. Quando si continuerà a mantenere questo elemento di curiosità, che è la spinta fondamentale, ho detto la spinta, direi una spinta forse meglio, ma direi una spinta veramente importante al sesso, per usare una parola antica ma che ha ancora valore, alla lussuria, una parola che evoca il peccato ma che è un elemento fondamentale della nostra sessualità ovviamente, ebbene quando, finché il transessuale costituisce un elemento di curiosità, il lussurioso, peccatore o non peccatore, decidetelo continuerà voi, a cercarlo. Andrà a cercare. Un'ultima domanda, Manuele, però devi rispondere o sì o no, che questo taglierà la testa al toro. Colui che pratica con abitudine rapporti con transessuali è gay o no? Perché tutti dicono io vado con i trans ma non sono gay. Questa è la domanda più intelligente che può essere fatta. Beh, la risposta è assolutamente no, non necessariamente, anzi più esattamente. C'è una tesi di laurea molto bella che abbiamo appena... Hai fatto del bene adesso, lo sai, in questo momento, hai fatto tirare sospiri sollievo a un'infinità di ragionieri, di geometri. Nel senso che una realtà poi oltretutto documentata scientificamente, abbiamo, ripeto, fatto questa tesi di laurea un mio studente della facoltà di sessuologia, di psicologia, di sessuologia dell'Università dell'Aquila, è andato a sentire clienti e transessuali prostitute, e proprio con questo intento. Ma cosa c'è il geometro? Come si fa a capire? Scusami. Quanto è omosessuale il comportamento di chi. Sì, ma c'è un attrezzo che lo indica. Come si fa a capire? Non lo è affatto. Sì, ma è un'ipotesi, perché non è che c'è un contatore Geiger della gaiezza. Ma certo che c'è, chiama scala Kinsey, non l'ho inventata io. Vabbè, poi un giorno ti chiamerò e parlerai di questo, perché vorrei capire questo attrezzo come funziona. Grazie Emanuele Iannini, grazie ai nostri ospiti, un po' meno grazie alle signore che sono state molto riservate questa mattina, ma avrò modo di sentire i loro pareri nella segreteria telefonica. A domani. Alors tous deux, on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continuer à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.